Grazie, mi chiedo se posso parlare senza microfono, che va bene lo stesso, mi sentite? Sì. Può andare, cosa manca lo dite e prendete il microfono. Ecco, è il sesto capitolo di questa lunga saga che io vengo raccontando a me stesso anzitutto e ai Bolzanini poi, perché io stesso mi interesso di queste cose e sono, è un secolo di storia praticamente, che va dal 1850 al 1950. Io lo voglio completare, riempire, lo espongo nel mio sito www.bolzano-scomparsa.it. Ci sono sulle 25.000 notizie in quel sito. Se andate a visitare sarete sorpresi da trovare anche dei video nei quali io parlo, racconto. Recentemente ho scoperto una cosa curiosa, ho scoperto il video del varo dell'incrociatore bolzano nel 1932 e l'ho postato proprio nel mio sito. Una cosa curiosa e interessante. Ho scritto anche di questo incrociatore di recente sul giornale Alto Adige, sul quale giornale Alto Adige voi leggete, suppongo, di domenica gli articoli sulla vecchia Bolzano, sulla Bolzano scomparsa, che io vengo via via raccontando. Le mie fonti sono giornali d'epoca che vanno dal 1850 per l'appunto. I giornali di Bolzano allora erano la Bozner Wochenblatt e la Bozner Zeitung, poi c'era più tardi il Tiroler, che poi ha cambiato nome ed è diventato con gli anni Dolomiten, che è Dolomiten che vedete oggi. E così mi leggo questi giornali in caratteri gotici che so leggere per fortuna e che mi raccontano queste cose che poi vengo ad esporre a voi. Dunque, questa è la copertina del libro, il sesto. Non illudetevi, è già in lavorazione il sedno. Io, finché trovo cose da scrivere e continuo a trovarle, incredibile quante se ne incontrino, io scrivo. Questo è Bolzano nel 1860, una stampa che vi propongo per come copertina perché ha delle cose interessanti. Innanzitutto vedete qua un tiro a quattro che va verso sud, verso Trento. Qui più o meno dopo un poco si imboccherebbe quella che oggi si chiama via Claudia Augusta, no? E voglio però anche farvi notare la presenza di questa zattera sul Bisarco. All'epoca il Bisarco era navigabile, come forse qualcuno di voi saprà, da Bisarco si passava all'Adige, cioè, recentemente hanno riattivato, credo di sapere, anzi so, un imbarco, una specie di porticciolo a bronzolo dove queste zattere arrivavano, zattere che nel caso specifico sono formate da tanti tronchi di legno. E il materiale che trasportavano era se stesso, nel senso che portavano avanti così i tronchi di legno. Oh, questa è la fotografia, c'è il signor dei due fratellini, Maurizio e Gigi Patati. Perché si trovano qua? Questa è una consuetudine che ha preso l'immaginatore dei miei libri. Cioè una vecchia immagine e dei personaggi. E siccome io gli ho offerto questi personaggi in un capitolo che poi voi vedrete e che forse avete avuto modo di conoscere, relativo alle fotografie sul ponte di Bolzano, sul ponte Tavola in particolare, vorrei fare, ho fatto alcune pagine sull'Alto Adige, ma vanno avanti stentatamente, non me le pubblicano con la frequenza che io vorrei, ma ne parleremo poi, perché altrimenti io ho un difetto, mi piace parlare e le volte piace proprio. Andiamo alla prossima. Ecco qua, sono i fratellini per l'appunto Patati sul ponte Talvera. Qua siamo nel, mi pare nel 1951-52. Ho raccolto quasi 200 fotografie di persone che me le hanno mandate relative a quel periodo mentre loro attraversavano Ponte Tavera. Ma perché Ponte Tavera? Perché c'era un personaggio, ci sono stati dei personaggi i fotografi di Excelsior, di Veronese, di Siracusa, non so se vi ricordate, no? Che si piazzavano là sul ponte e fotografavano i passanti. E la macchina fotografica all'epoca, parlo degli anni 30, 40, 50, non era così diffusa come oggi. Oggi qualsiasi ragazzino ha il suo tablet, il suo cellulare, fa la fotografia, eccetera, eccetera. Una volta avere una macchina fotografica era una cosa complicata, costoso, e allora chi passava sul Ponte Palmera vedeva pararsi davanti inizialmente questo signor Alberto Granziol, che era il titolare di Foto Excelsior, che si trovava, se ricordate, in Piazza della Mostra, sì. No? E vi faceva la fotografia, cioè fingeva di farvi la fotografia perché non la faceva, perché doveva voleva risparmiare celluloide, naturalmente. No? E allora, è interessata la fotografia? Dice, sì, dico io. No, no, un momento, torno indietro che gli faccio, vediamo se, perché così posso scegliere la migliore. Invece non l'aveva fatta e poi scattava finalmente lì l'aula. Scusi, possiamo applaudire questi due bambini presenti in sala? Sono presenti in sala, i due fratellini Patate, uno solo, ma uno solo, Gigi Patate e quello là, con quei bambini, scusi, era popolarizzato nel 1951. È bello vedere questo contatto continuo con il passato e il presente. Io faccio parte del passato remoto, perché sono nato a Bolzano nel 34, e come dicevo alla signora Fedeli, che è la mia fan, e la ringrazio di frequentare questi video chiacchierati, e io sono stato qui, e se non lo sapete ve lo racconto, sono stato qui figlio della Lupa, Bavilla e tutte queste cose qua, quindi ho dei ricordi lontani di, e anche di qualche bombardamento. Andiamo avanti, eccolo qua, questo è Alberto Granziol, che è venuto dal Friuli e fotografava la gente che attraversava il Ponte Talvera. Notate il carabiniere, si vede che è un giorno di festa, nei giorni di festa i carabinieri così si vestivano, in alto di fuoco, e vedete questa targa, a me piace molto, perché era le targhe dei tram. Il tram è arrivato a Bolzano nel 1908 e aveva le targhe disarmata, avevano questo, è naturalmente in tedesco, originariamente avevano questa forma. Ancora Granziol, e qui vedete i binari, no? Questo significa che questa fotografia è antecedente il 1948, questo è il periodo di guerra che è stata fatta questa foto. Questa è la bella famiglia a spasso la domenica, fotografata sempre da Granziol, e ve la propongo perché dico la domenica, perché sono vestiti da domenica. Perché se vi ricordate una volta la domenica ci si vestiva quell'anno bello. Ecco, io la domenica accompagnavo mia madre, tutta la famiglia, si andava in Duomo a messa, alla messa delle 11, era la messa elegante, e io portavo il vestito da marinaretto, il vestito cioè della prima comunione, che era il vestito elegante. Questa è la famiglia di Orazio Leonardi, vestita a festa, vedete questa bella signora con quel cappello. Andando avanti di un'altra immagine vedo un'altra famiglia, questa è dopo la guerra, qui ci sono ancora i binari del tram, e la signora ha una volpe sulle spalle, una volpe argentata, una cosa che forse quando sapete ve la dico adesso, è che all'epoca, a cavallo tra gli anni 30 e 40, a Bolzano, anzi in Alto Adige, si allevavano volpi. E questa è mia madre, e questo sono io. Questa è la famiglia principale. Questo sono io nuovamente, sempre beccato qui sul Ponte Talvera, facevo il Boy Scout, sempre Granziol che fotografava, e qua c'è Carmen Tabarelli De Fatis con la mamma e con la nonna. Ripeto, ho raccolto tra le 180 e le 200 fotografie, credo che ne farò un libro, perché sono belli, sono simpatici questi vecchi queste vecchie fotografie, come questa in particolare. Naturalmente io avevo anche dei nomi con dei riferimenti scritti per poter essere più esaurienti in queste mie chiacchierate, naturalmente li ho dimenticati a casa. Ma questa è una coppia che mi ha mandato, mi pare, Zanella, non mi ricordo il suo nome, la zia Rosina e il suo moroso. Guardate questo militare italiano poverino con il suo vaccinato, che siamo andati in guerra. Voglio farvi notare una cosa di questa fotografia: la statua, adesso c'è San Francesco, ma allora non c'era San Francesco. San Francesco di adesso è stato scolpito da Ignaz Gabloner, no? Perché durante la guerra è stata distrutta, e questo era all'epoca un vescovo, come voi vedete, San Giovanni Nepomuceno, che sovrintendeva nell'ambito di lingua tedesca e proteggeva tutti coloro che avevano a che fare col fiume, con l'acqua. Le statue di San Giovanni Nepomuceno si trovavano sui ponti. Sul ponte Loreto di Bolzano c'era una statua di San Giovanni Nepomuceno del XVIII secolo, naturalmente distrutta dalle bombe. San Giovanni, vi voglio dire un particolare, poi vi dovete accelerare perché alle 7 voglio consentirvi di andare a casa. È patrono di coloro che attraversano i fiumi, perché dovete sapere che questo San Giovanni, che era un boemo, fu chiamato un giorno, e questa è storia, dal Kaiser della Boemia, che era un Asburgo, il padre era molto geloso, e siccome il San Giovanni non era ancora stato, Giovanni era il confessore del Kaiser, il Kaiser gli chiese che peccati commetteva sua moglie, in particolare se emergeva qualcosa di piccante da quello che lui sapeva. Il prete non ha voluto riferire cosa era stato detto in confessionale, e così fu chiuso in un sacco e buttato nel fiume di Praga, che è la Moldava. Uomini gelosi. Ancora Ponte Talvera, sempre le foto di Granzioso. Guardate che bella questa fotografia del 1956. I binari non ci sono più, si è passati all'asfalto, e questo sarà il vespistico, il nuovo mezzo di locomozione. Ecco, questa invece è una gara che partiva da piazza subito dopo la guerra. Dico subito dopo la guerra perché, come vedete, il monumento è chiuso, cioè le statue erano state vandalizzate, bisognava riparare, bisognava intervenire. Ci sono ancora i binari che sono stati tolti nel 1948. Voglio farvi notare il tram e soprattutto la pavimentazione, che era nefanda. Io mi ricordo quando bambino passavo in bicicletta lì, rischiavo anzitutto di finire nelle rotaie, e poi era tutto un sobbalzare perché c'erano quei ciottoloni che coprivano varie strade di Bolzano, come un pezzo di via Leonardo da Vinci, come un pezzo di via Cassa di Risparmio. Ciottoloni è la stessa cosa, la stessa strada del Brennero nell'attraversare Renzo, era fatta di ciottoloni, per esempio. Quindi potete immaginare che cosa gradevole poteva essere all'epoca. E qua nuovamente i ciottoloni, nuovamente i codi del tram, e qua siamo nel 1928, e qua c'è il re. Pensate un po', il re che ha appena inaugurato il monumento alla vittoria ed è sotto uno di questi tre pennacchi, perché all'epoca i ufficiali degli alti comandi usavano coprire il loro kepi, chiamiamolo così, il loro berretto, con una lunga piuma di struzzo bianca. E quindi il re aveva anche lui, comandante dell'esercito, aveva anche lui questa lunga piuma di struzzo. un po'. La cosa mi sembra abbastanza ridicola, però cosa volete? Era una operetta sotto sotto. Comunque nel vent'anni ancora si usava. È una cosa che trovo simpatica, vedete che i militari che fanno il presentatore, è la presenza della scorta. Oggi sarebbero grossissime motociclette. Allora le biciclette, chi si accontentava? Ancora una cerimonia davanti al monumento alla vittoria, qui passa un drappello dei fascisti che alza il braccio, vedete le divise nel saluto romano, vedete le divise di questi militari con i berretti vecchio stile, ma voglio farvi notare questa costruzione, questa casa, sono le Incis. Le Incis di Piazza Vittoria una volta assomigliavano alle Incis che si trovano adesso e che hanno mantenuto questo stile tra Via Carducci e Via Dalmine. All'inizio, avete presente? Questo stile un po', vedete questi timpani classici, cose del genere. Poi quando si è trasformata questa piazza, secondo lo stile razionalista di Marcello Piccentini, coordinare un po' il tutto, tutti questi orpelli che ci sono tolti, ci si trovano soltanto dei muri lisci, che per la verità a me piacciono abbastanza poco, avrei preferito che restasse così, Piazza Vittoria. Allora, passiamo ancora in Piazza della Vittoria, dalla parte del ponte che è qua dietro, ecco. Adesso vi spiego una manifestazione patriottica, terminavano tutte al monumento alla vittoria con la deposizione di corone. Sapete perché soltanto adesso si è fatta negli anni recenti una rotonda, insomma, un qualche cosa con l'aiola in mezzo a Piazza della Vittoria? Prima non si poteva fare, perché la piazza era destinata ai raduni, alle marce, e allora se ci fossero state qua delle rotonde, delle aiole, la cosa non sarebbe potuta venire. Questi sono i ragazzi del convitto che si trovava in Viale Trieste, era, che c'è tuttora, però adesso serve ad altri scopi, ed era una scuola, diciamo media superiore, che consentiva a questi ragazzi di espletare il servizio militare fino ai 18 anni, venivano addestrati militarmente e contemporaneamente apprendevano un mestiere che poteva tornare utile nel loro futuro di soldati, ingegneri soprattutto, elettricisti, radiotelegrafisti e tutto. Era un vivaio del governo per il futuro. Di questi ragazzi io li ho invidiati, perché ero, come avevo detto prima, figlio della Lupo e Balilla, e marciavano in una maniera divina. Avevano questa buffetteria bianca, guardate che belli che sono, no? E avevano le ghette bianche. Immaginate, io avevo dei calzerotti di Vanital, che era la lana. La lana artificiale che pizzicavano, e per me le gambette nude di ragazzine di 7-8 anni dovevano sopportare il lana pizzicoso, non lo so, e loro avevano le ghette bianche. Andiamo avanti, altra bella marcia davanti al monumento alla vittoria, la regione Alto Adige, camicie nere, il tram. È troppo patetico il cappellano militare che marcia impettito con la sua lunga tonaca. Don Perugini, no? Non era, no, Perugini era basso di statura. Poi sapete, questi giardini qua, oggi Parco Petrarca, erano il Parco San Giorgio, così si chiamava. E qua siamo nuovamente ancora sul ponte, qua durante la guerra, queste sono ausiliarie tedesche. Momento di goliardia, sempre lì, siamo nel 1950 circa, sul ponte Tavera, liceali col berretto in testa, il carnevale, un fiore in bocca, a camminare su ci si divertiva anche così. L'ho fatto anch'io questa camminata stupida e mi divertivo, e la gente guardava e si divertiva. Un divertimento era anche quello di mettersi all'epoca appoggiati alla ringhiera, indicando nell'acqua, indicando qualche cosa nell'acqua, e poi si fermava la gente, si metteva a guardare cosa c'era nell'acqua, altra gente, noi andavamo via e la gente si accumulava, nessuno sapeva cosa c'era. Da dove ho preso tutte queste notizie e altre? Le notizie più vecchie le ho prese dalla Bochner Zeitung, che è erede della Bochner Wochenpress, come ho detto io. Questo era il loro ufficio, che si trovava in piazza Walter, si chiamava Walter Platz, allora, no? Prima si era chiamato Johannes Platz, poi prima ancora Maximilian Platz, poi dopo Piazza Walter è diventata Piazza Vittorio Emanuele III, dopo, e voi non lo sapete di sicuro, è diventata per qualche anno Piazza Madonna, perché la chiesa vicina in Duomo è dedicata a Maria Auxiliadrice, e poi è tornato Walter. Maria Assunta. Come? Maria Assunta è dedicata a Maria. Maria Assunta, non Auxiliadrice, brava, brava. Oh, questo è uno zuavo del Papa, un ufficiale papalino, ed è il barone Josef di Pauli di Caldaro, che ha combattuto contro Garibaldi durante il periodo della Repubblica Romana. Avete presente Mazzini, Barbellini, Sarti? La mano armata era rappresentata da Garibaldi, costituirono la Repubblica con grande rispetto del Papa, però furono sopraffatti Garibaldi e gli altri, Francesca e Gori, furono sopraffatti dai fucili dei francesi che intervennero in aiuto del Papa, con dei fucili innovativi rispetto a quelli precedenti, che erano ad avancarica, si sparavano 3 colpi al minuto. Con i fucili di francese di Schacherpold, erano fucili a retrocarica, da tiro molto più veloce. Poi, nella prima guerra mondiale, vennero le mitragliatrici. Josef di Pauli era anche comandante del. Fu anche comandante delle Schützen, 200 Schützen di Caldaro, che poi furono chiamati a difendere il confine del Tirolo nel 1859, quando Garibaldi, il libro che io ho scritto, che vedete là, passando di montagna in montagna, partito da Torino con 3.000 volontari, arrivò allo Stelvio con oltre 9.000 volontari. Man mano che si avvicinava, affluiva volontari che stavano per irrompere in Val Venosta, era lì a portata di mano, perché gli uffici non ce la facevano a contenere questa massa di gente giovane, entusiasti, eccetera, e quindi si arroccarono sullo Stelvio. Arrivarono sullo Stelvio anche Garibaldi con i suoi cacciatori delle armi. Non era Garibaldi, lui stesso non si vestiva da Garibaldi. Poi vedrete, l'avete già visto lì forse, la divisa di Garibaldi era una divisa dell'esercito sabaudo, perché i Savoia hanno voluto gestire lui questo irrequieto e senza Dio anticlericale e repubblicano, no? Ecco, e questo qui per l'appunto è Josef di Pauli, che difese la Repubblica, difese il Papa contro la Repubblica, contro i garibaldini, e c'è da dire dei di Pauli che erano un, eccolo qua nuovamente, sono belle queste fotografie, anche perché nessuno li conosce, sono riuscito a farmele dare da un ultimo di Pauli che abita qui a Bolzano. E tra parentesi, è una famiglia di, per certi versi militarista, Pensate che poi si adattarono, si adeguarono ai Savoia, e due di Paoli andarono in aviazione, aeronautica militare, la regia aeronautica, uno morì a Brindisi durante il suo aereo, l'altro di Paoli combatté nel Nord Africa nella seconda guerra mondiale e fu insignito di medaglia d'argento e di medaglia di bronzo per azioni eroiche che aveva combattuto. L'ultimo di Paoli vivente è quello di Nassiriya. Vi ricordate Nassiriya? L'attentato del talebano di Nassiriya con 19 italiani morti, 28 compresi compresi e molti, e alcuni di questi erano dei carabinieri del reparto che si trova a Laives. Era comandato questo reparto da Georg Di Paoli, che attualmente è il generale comandante della legione del Trentino Alto Adige. Fotografie. Avete visto prima delle fotografie colte, delle istantanee colte sui ponti di Bolzano, e qua ho voluto parlare invece dei fratelli Pedrotti, di Enrico Pedrotti in particolare. Da Trento, che sono venuti qui a Bolzano, hanno aperto uno studio meraviglioso con delle fotografie premiatissime anche all'estero, con questo sistema che avevano loro di diffondere luce nelle loro fotografie, nelle loro immagini. Guardate la luce, questa è un'annunciatrice della Rai di Bolzano, ma qui siamo negli anni 40 ancora, si chiama Angela Berzuini. Guardate quanto è bella questa foto, sono foto degli anni 40 queste. Aveva studio per l'appunto dove c'è adesso la galleria medica, che adesso deve chiudere perché non ne rinnovano più il contratto. Questo lo riconoscete, l'altro galleria grande, il fotografo, il pianista per l'appunto. E questo mi è piaciuto, c'è il figlio Luca di Enrico, che abita adesso in Via Trieste, che ha un 50.000 fotografie, ritratti e cose del genere. E questa mi è piaciuta perché durante la guerra venivano fatti fotografare anche i militari tedeschi. Questa è della Kriegsmarine, le marine di guerra, hanno fatto una cosa. Enrico Pedrotti era partigiano e finì anche il campo di concentramento, però i suoi affari li faceva anche con i militari tedeschi. Questa è anche una bella foto dell'epoca, e questa mi piace da morire. Questa è la classica fotografia del stai, guarda che si vede l'uccellino, no? E il bambino che sta attento per vedere, anche io, per vedere, guardate, che vuoi vedere l'uccellino, che poi lo vedi, ma non c'era niente, però un lampo gli dà l'illusione di averlo visto. E questa è l'altra storia. Vediamo chi ora è, devo stare un po' attento nel essere lungo. Questo è Francesco Giuseppe e questa è sua moglie Elisabetta, la Kaiserin, no? Perché vi ho fatto vedere questa fotografia? Ve la faccio vedere perché il re, il Kaiser, venne a Bolzano passando varie volte, ma in particolare nel 1880, per andare a Merano, dove si trovava l'imperatrice a Traubensdorf con due figlie, Valeria e Maria Valeria e Gisella, o Gisella, lei voleva, avrebbe dovuto chiamarsi Gisela, ma lei voleva farsi chiamare Gisella all'italiana. E siccome c'era la piccola che non stava bene, doveva respirare la buona, la portarono a Merano e l'imperatrice gli fu visitata, per visitare suo marito, il consorte, per l'appunto una volta Francesco Giuseppe. Potete immaginarvi che feste a Bolzano, arriva il Caio, non era mai arrivato in Caio a Bolzano, feste meravigliose. E adesso potrei anche leggervi qualche cosa, ma non ve lo voglio. Vediamo qualche cosa, nel timore però. Come? 1870. Tra l'altro, nell'anno, nel 71, non so se lo ricordo, ma credo di sì, nel libro, nel 1871, la Bolzan Zeitung uscì con incorniciata a lutto perché era il primo anniversario del 20 settembre 1870, quando i bersaglieri, attraverso Portapia, irruppero in Roma e cessò praticamente il potere temporale dei padri. Qui siamo nel 71, ecco cosa scrive il giornale. La gente aspetta. Sono inoltre mezzi, il cronista è all'ingresso della città al ponte sul Tavera, dove tra gli scolareschi impazienti, quelle bandierine attendono, il sindaco dottor Strider, cui è dedicata la strada che si trova davanti al Capitol, con i consiglieri comunali Marchesani, dottor Kinsley e dottor Brighton d'Archelopo. Ed ecco che da lontano si ode il suono delle campane e lo scoppio dei mortaretti. Il Kaiser è giunto a Gris e fa visita alla Granduchessa di Toscana e al Conte di Caserta, mentre risuonano le note dell'inno nazionale suonato dalla banda locale. Perché la Granduchessa di Toscana e il Conte di Caserta? Dove erano? Erano i posti della Villa Grammaia, che si trova tuttora andando giù per via Diaz, dopo le scuole sulla destra, quel villone, no, grande, che dove abita adesso tra l'altro il sindaco Fagioli. Perché si trovavano là? Perché era crollato, facciamo il video che si fatto lì, era crollato in via delle due Sicilie. E allora questi potentati locali, Granduca, la Granduchessa di Toscana, anche il Granducato di Toscana era stato inglobato dai Savoia, il Conte di Caserta, due Sicilie, erano venuti a Bolzano, a rifugiarsi a Bolzano, presso gli Asburgo. Alle 9 in punto il Kaiser raggiunge l'Arco di Trionfo in una carrozza aperta a doppio traino, in compagnia dell'aiutante maggiore von Kroll e tra gli allievi della folla, e viene ossequiato nuovamente dal sindaco e dai consiglieri comunali, anzi nuovamente poteva evitare. La cosa che prosegue con il Kaiser che percorre la Mauergasse, cioè la via Tauber, andando giusto alla sinistra c'è via Tauber. Mentre le campane suonano a sformo e i mortaretti scoppiano incessantemente, scoppiano dappertutto, fino all'hotel Kaiser. In piazza della Mostra c'è da dire una cosa, che questa Mauergasse era la via d'accesso al centro, bisognava girare, perché via del museo, via museo, non era chiusa in fondo, non sboccava come adesso in via, in piazza dell'Erga. Allora bisognava fare tutto un giro per poter accedere alle vie centrali lungo quella che oggi è poi via Vintola, via di Vanga, eccetera, eccetera. E poi racconto altre cose che adesso vi risparmio, ma continuo questo articolo citando l'imperatore, il Kaiser, che ha ricevuto la visita del conte di Girgenti, cioè di Agrigento, e del duca di Parma, anche il ducato di Parma era scomparso, tutti qua sono i signori, e torna a restituire loro la visita. C'erano delle usanze allora, c'era l'andata e ritorno, uno va a trovare e poi subito dopo quello che è stato trovato va a trovare la sua volta. E come quando più o meno il Papa va in visita al Presidente della Repubblica e subito dopo nel pomeriggio il Presidente della Repubblica va a visitare il Papa. È una storia di etichette che non so che ragione abbiano, ma io penso che la ragione sia quella del mettere sullo stesso piano i due personaggi, in modo che uno non prevalga sull'altro, non deve essere solo uno che fa la visita all'altro, ma la visita deve essere reciproca. Elisabetta venne in Alto Adige anche più avanti, l'anno prima di essere uccisa al lago di Ginevra dall'anarchico italiano Lucchini, con una pugnalata alla schiena, e venne in Alto Adige, per l'appunto all'hotel Carezza, che che le piaceva, l'hotel allora, che era volendo un mostro ecologico, perché tra quei prati hanno costruito questo casone, anche allora ci facevano questi scempi, e ospitava gente danarosa naturalmente, che si stava lì tranquilla, e voleva anche tornarci ad ammirare il tramonto su Rosengarten, dopodiché poter andare all'appunto. Se andate a Schönbrunn, c'è un piccolo museo, e potete vedere in una vetrina la camicetta di insanguinata di Elisabetta. Ma questa è una parentesina che ho voluto infilarci. Conoscete questa strada? Questa è via Conciapelli, Valle di Tolleranza. A Bolzano la prima è stata aperta in via della Rosa, poi hanno aperto questa all'inizio del 1900, giustificandola come struttura turistica. E un'altra in Piazza del Mercato, che è l'odierna Piazza Verdi, è che state dicendo le bombe. E sopravvissuta questa, io racconto alcune cose che alcuni ricordi anche personali, così, per curiosità, anche perché fa parte della cronaca. Questa è una signorina messa nel libro per farvi la figura, una supposta ospite di quella casa del bordello, ma vi assicuro che non erano così avvenenti. Andiamo avanti, questa è una cosa più interessante. Guardate, questo aereo che è sfilato il 2 giugno scorso a Roma, alla parata di fuori imperiali, questo aereo ha sorvolato durante la guerra Bolzano. Questo è uno SVA 5, qua c'è il numero 11.721, è al traino, naturalmente qua c'è da qualche parte c'è Napolitano, deve essere qua di... Ah, questa qui è la Boldrini, sto vedendo adesso. Allora forse questa è Napolitano. E qua, se riuscite a vedere, ma la si vede molto bene, ci sono delle nomi di località. Sono in, e anche dall'altra parte, sono i nomi delle località che questo aereo ha sorvolato durante la guerra. Era un aereo da ricognizione, non da bombardamento. E tra i nomi figura Bolzano, Franzensfest, Innsbruck, località trentine, poi Innsbruck, Innsbruck ve l'ho già detto. Innsbruck fu anche bombardato dagli aerei italiani, presumibilmente non da questo, ma è importante il fatto che questo aereo ha sorvolato il 18 agosto del 1918 Vienna con D'Annunzio. Questo non è uno SVA, questo è Natale Palli, che era il pilota di D'Annunzio, e che ha sorvolato Bolzano a sua volta, forse con quello stesso SVA 5 di prima. E ho saputo che questo, leggendo i giornali dell'epoca di lingua tedesca, credo dal Tirole, che questo Natale Palli aveva, dice il giornale, bombardato, quindi forse dava anche un altro aereo in Caproni, Bolzano, perché riferì la notizia secondo la quale Palli era morto nel sorvolo, dopo la guerra, sorvolando il Monte Bianco. Voleva fare un'impresa all'epoca eroica, partire da Padova e arrivare a Parigi, ma nel sorvolare il Monte Bianco ha dovuto atterrare, atterrato sul Nevaio, non si è fatto niente, l'aereo si è bloccato là, ma quando hanno raggiunto ad alzare Palli per portarlo in salvo, era ormai morto assiderato. Il tram nel 1908, come ho detto prima, i primi tram a Bolzano, e qua c'è il passaggio dal tram all'autobus nel 1948. Questo è il liceo classico, siamo nel 48, ripeto. Il liceo classico non è ancora aperto perché non è stato ancora restaurato del tutto. La chiesa di fronte, che era quella dei Domenicani, era stata quasi completamente distrutta, proprio il tetto mancava, e questi sono autisti, notate, con la berettina e la visiera in testa, a loro modo eleganti, con lo spolverino tutti. E qua c'è anche un personaggio che oggi non esiste più, perché oggi ci si fina. Questo è un bigliettaio, se non avevi il biglietto non salivi, ogni salgono tutti. Però costa più un bigliettario. E questa è la realtà delle cose, cinicamente così. Siamo a Magdeburgo, campionati europei di nuoto. Saluti nazisti. La squadra italiana, vedete la diarchia come si esprime, lo scudo di Savoia e il fascio. E questo è Klaus, Carlo Di Biasi, padre di Klaus, come sapete, grande truffatore. Questo è Otto Kasteiner, che è stato avversario di Biasi. Otto Kasteiner, che chiamavano all'epoca Ottone, naturalmente, no? In realtà Otto Kasteiner è stato avversario di Biasi. Poi i due optarono per la Germania. E questo veniamo a tenere. Questa è Carmen Kasteiner, la figlia di Otto. Questo è Giorgio Cagnotto e questa è Tania Cagnotto. Bellina, no? Guardate con cara sospettosa che guarda il fotografo. Ho proposto qui con questa immagine. Ho parlato anche del Ponte Tavola, dell'inaugurazione, ma adesso vi racconterei tante storie. Adesso passo in rassegna le fotografie, che sono già un motivo di per sé stesso di interesse e di attrazione. Questo è Ponte Tavola. Ponte Tavola, fino al 1899, si snodava su 10 piloni, era di legno, una struttura di legno, era largo, mi pare, 4,5 metri, quindi pochissimo. Non era in condizione di sostenere un tram perché sarebbe crollato, e fu pertanto nel 1900 che il vecchio ponte, che è questo, eccolo qua, fu abbattuto per costruire quello nuovo. Questa è una passerella provvisoria, che fu abbattuto per costruire quello nuovo che vedete adesso. Questo era l'arco dei giardini di Gries, l'Urbanspark. Qua dietro, dove c'è adesso il momento della vittoria, qua dietro, durante la guerra, prima guerra mondiale, sono iniziati i lavori per la costruzione del monumento ai Kaiserjäger, che poi restarono incompiuti, il monumento fu abbattuto e qua fu edificato, fu eretto il monumento alla vittoria, prima pietra 1926. Presente il 3 e poi inaugurazione 28, come ho detto prima, ho fatto vedere le immagini, presente nuovamente il re in quell'occasione a Bolzano, Rai Bolzano, e fece la prima radiocronaca. Non c'è questa. Bellina questa, tutta una pagina dedicata alla elezione del, questo che era Volkswagen, che era cattolico, in antichi della Borten Zeitung, che era anticlericale e laico liberale. Questa è la statua della Madonna che è stata eretta a ricordare l'intervento della Madonna nel 1836 nell'occasione di un colera. Questa i clericali, stato volevano erigerla al centro di Piazza Walter, non c'era ancora il monumento a Walter, però per ringraziare, per devozione, eccetera. Però la giunta comunale di Bolzano e il sindaco di Bolzano erano laici e non ne vollero sapere di questo simbolo religioso in mezzo a Piazza Walter. Allora, vi sposero, se proprio volete erigerla, andatevela a fare dietro il Duomo in direzione del, si ritiene che allora si trovava. Poi tra gli argomenti che opponevano c'era questo, molto diceva, ma poi come, cosa volete? Una Madonna in mezzo a Piazza Valle significa che durante il passeggio domenicale, quando la gente va avanti e indietro per la piazza, tutte le volte che uno passa davanti alla Madonna deve togliersi il cappello. Allora ritennero che non fosse il caso, specialmente durante i mesi invernali, togliersi il cappello andando, torni il cappello, torni avanti e indietro il cappello, eccetera, eccetera. E così l'hanno fatto, cioè, davanti alla scuola dei francescani, che è stata, che io ho frequentato, e che è stata costruita non all'epoca, nel 1855. Questa è la statua che sarebbe dovuta sorgere in centro a Piazza Walt, che allora si chiamava Piazza Vittorio Emanuele III, negli anni 30. Sapete chi è? Che innanzitutto l'ha fatto Pilfrade, Hans Pilfrade, lo scultore di Reduce a Cavallo di Piazza Vittorio, no? Non voglio dire che fosse premiato di spirito fascista Pilfrade, semplicemente doveva campare e si ridavano, si ricommissionavano un lavoro importante, lui ben lo faceva, ben volentieri lo faceva. Questo, secondo Pilfrade, doveva essere Druso, il conquistatore di questa zona, no? Del Norico, si chiamava, la zona latina si chiamava, era il Norico. E questo è un bella statua con questo generale romano in movimento, solo che ha una testa che non è assolutamente latina, che non è assolutamente romana. Guardatelo bene, questo è Secchino, non è Secchino questo, non è piaciuta, non è piaciuta, e quindi è rimasta allo stato così di bozzetto. Ho altre costruzioni, la scuola le conoscete, che sono le vite, ecco la Madonna di cui vi dicevo prima. Questa costruzione neogotica è la sede del Turnverein, cioè della società ginnastica. Il Turnverein con l'Alpenverein all'epoca erano ferocemente antisemiti. Pensate che agli ebrei non era consentito entrare in un rifugio dell'Alpenverein, questo per dire, ma chissà chi da dove ha desunto questo suo antisemitismo, eccolo qua, era diffuso. Questa costruzione non piaceva in epoca fascista perché troppo gotica, ed è stata trasformata così, opera nazionale valida, in stile razionalista, che però non c'entrava niente logicamente con circondario in assoluto, e poi oggi banalizzata così. Qui siamo la RAI, io dovrei raccontare qualcosa della RAI, anche perché il pazzo era mia collega di anni lontani, Gemma da Ponte. La RAI, la prima RAI a Bolzano, non era RAI logicamente, era la URI, Unione Radiofonica Italiana, poi trasformata in EIR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, e poi in RAI. E la prima sede fu in via Principe di Piemonte, che oggi è via della nostra, e avevano un auditorium che si trovava in Piazza Walter, e che oggi non esiste più perché è stato assegato a metà da un passaggio tra Piazza Walter e via dei Grappoli. Avete presente il Bar Domino? Il Bar Domino, continuando dall'altra parte, era l'auditorium, e poi il Bar Sociale, era l'auditorium della RAI, da dove andavano in onda su rete nazionale e concerti in diretta. E Bolzano era il centro di produzione. Oggi i centri di produzione sono, per la RAI, sono Roma, Napoli, Torino e Milano. Allora, non so se ci fossero quelli, Roma e Torino di sicuro, c'era anche Bolzano che irradiava direttamente da Bolzano, da Monticolo, i suoi programmi. La RAI poi si trasferì per l'appunto qui, in questo palazzo, che è stato eretto nel 1931 dove si trovava in precedenza un campo destinato al pattinaggio d'inverno, ci si pattinava tra il museo che è qua e si pattinava e lavoravo anche io, ho cominciato a frequentare questa sede nel 1955 e questi sono i potenti mezzi della RAI, allora potenti, e qui è venuto qualcosa da ricordare qui su, perché là in questa qua c'è la stanza da letto nella quale sono nato io nel 1934. Pensate che il palazzo è del 1931 e mio nonno è tedesco e germanico, l'aveva acquisito per sua figlia, mia madre, nel 1932 quando lei si è sposata, con 3.000 marchi d'oro che mia madre si era nascosta nella gonna quando è venuta dalla Germania qua in Italia incontro a mio padre. E perché tutto questo? Perché mio nonno progettava, che era giardiniere, aveva soldi, progettava di trasferire la sua azienda dalla Germania all'Italia. Perché venire in Italia e partire dalla Germania? Perché all'epoca il marco era debole e la lira era forte. Cosa può capitare? Poi è venuto Hitler nel 1933, il marco si era rafforzato e la giardineria è rimasta fuori e mia madre è rimasta qua. E là sono nato io. Siamo sulla Wassernau, questa è la passeggiata del Lungo Tarda. Qui vedete il monumento a Re Laurino. La passeggiata sul Lungo Tarda era un argine, trasformato negli anni in passeggiata. Costruito l'argine nel 1675 da questo Hafner Baumeister, Baumeister vuol dire operaio, costruttore, eccetera, eccetera. E andiamo avanti perché sennò la facciamo troppo lunga. Ah, questo è un personaggio interessante. È venuto alla mia precedente presentazione di questo mio volume. Questa si chiama Sara Voltani oggi. Questa è una bambina che è sopravvissuta nel 1944 alla strage di Marzabotto e ho raccontato la sua storia. Questa ragazza, questa bambina, questa donna, e ci trovavano per l'appunto a Marzabotto, e ci fu la rappresaglia di Kesselring, dei nazisti, perché i partigiani davano molto fastidio alle truppe germaniche, e ci furono vari giorni di strage in giro per i paesi, per la zona appenninica, incendi, eccetera, e solo a Marzabotto ci furono 760 morti, nel comprensorio 1800. Questa signora, con questa bambina, che all'epoca aveva 2 anni, fu ammassata davanti alla chiesa, come gli altri abitanti di quella frazione di Marzabotto, per essere passata per le armi davanti al plotone di esecuzione. Questo me l'ha raccontato lei. Ed era il momento, la bambina in braccio alla mamma. Però, ecco, da bene, avvenne una cosa stranissima, che c'era un vecchio che si chiamava Mattia, che si rifiutò di farsi accompagnare, di andare nel gruppo di coloro che dovevano essere fucilati. E allora andarono a prenderlo, 2 militari tedeschi, lui si aggrappò a tutto, alle ringhiere, questo vecchio Mattia, insomma, non so quanto vecchio, forse aveva le mani di me, che sono vecchio. Nelle more, perché l'ordine era che dovevano queste povere persone essere fucilate in piazza. Lo potevano uccidere a casa sua, ma non perché l'ordine era ordine, perché e bisogna osservare gli ordini. E allora, tira di qua, tira di là, non riuscirono a staccarlo dalla ringhiera e nel frattempo arrivò, per questo qualche minuto, arrivò una motocicletta con un portaordini che disse che da quel momento la rappresaglia aveva termine. E così la signora disse, la piccola Sara, che si chiama Sara Voltani, perché è sposata adesso abita via Tre Santi e più volte non ha potuto sopravvivere. Questo è un altro episodio, questa è la famiglia, una famiglia ebrea, famiglia Carpi, questa è la piccola, la vedete a parte, no? La piccola Olimpia, 3 anni, questa famiglia abitava sotto casa mia, cioè nello stesso edificio che avete visto prima, via nel 2020, e furono trasferiti in un campo di concentramento, sembrava che c'era tornato, morirono. Furono traditi da un sociologo che si chiamava Clemente, di cui io mi ricordo benissimo, che aveva una drogheria, una piccola drogheria di Leonardo da Vinci, e che accompagnò la Gestapo a casa di questi signori, di signori. Poi fu processato, ma come troppi sottirolesi si trovarono collaborazionisti in queste condizioni, si giustificò dicendo: ah, no, non ho fatto niente, non ho mica preso, non ho mica fatto il nome lì, e semplicemente sono stato convocato per come interprete, perché sono sempre italiano, sono sempre così se le cavalli. Questa è la tessera, siamo in periodo di caccia all'ebreo praticamente, no? Vedete questa Elena Liechtenstein, qua siamo il podestà di Bolzano 1938, questa è lei, razza ebraica, era austriaca apolide, residenza a Bolzano via Montegraffa 4. Razza ebraica, signora. È bello che anche sottolineato in rosso, right? E poi c'è la firma qua, dice corretto d'ufficio, il documento è stato corretto d'ufficio con il timbro del comune di Bolzano. C'era, come sapete, il podestà all'epoca dove è scritto la legge, ecco il podestà e non vicino, il collettivo il podestà. Questa è Maria Giuliana, partita da Fiume, arrivata a Bolzano, non mi ricordo più come si chiama, avevo dei miei appunti che ho lasciato a casa, oggi si presenta così e vive a Rovereto. Ecco qua la sua foto, alcune foto che le sono state fatte. Gli istriani e i dalmati che hanno dovuto lasciare la loro terra sono per 250-300.000, moltissimi sono stati infoibati. Il padre di questa bambina è stato sicuramente infoibato. Vennero i titini a prenderlo, era una persona che lavorava, forse con progresso, con un ritmo del genere. E hanno portato per un breve interrogatorio, per di solito scusa, no? Qualche pratica, e non è più tornata. La bambina è riuscita a scappare con i suoi parenti, sono arrivati qui a Bolzano. A Bolzano, nell'archivio storico, c'è un cassettino con tutte le schede, sono 676 di Giuliano Dalmati, che sono papani, si sono presentati quando c'era un centro, né quale fotografia relativa, dove questi precisano luogo di provenienza e dati anagrafici. E poi i loro desideri, sono patetici questi desideri. Ce n'è uno in particolare che mi ha colpito, un professore che scrive, per supportare una cosa del genere, la insufficiente pensione, mi adatto a qualsiasi lavoro. È la gente che cercava di lavorare, di campare, poi si sono dispersi per l'Italia, e c'è da dire purtroppo non erano ben visti dalla sinistra di allora, c'era Stalin, che considerava tutti questi popoli giuliani cacciati per la loro ideologia e per chissà quali colpe dall'Istria e dalla Dalmazia. Ecco la signora oggi, che ha sposato, tra parentesi, un Giovanni Tomasini, che è Tomazzoni, che è fratello del primario Franco Tomazzoni, che forse avete conosciuto. Siamo a conclusione di questa chiacchierata. Sapete dove siamo? Qua siamo a Lazio. Le cave di marmo, le bianche, cave di marmo di lava, che vorrei andare a visitare una volta, perché mi hanno detto che sono veramente belli e interessanti. Questo è il... sono a lavorare sì, poi non si lavora così, così. Perché io vi propongo il bianco di lava? Perché ho scoperto che le tombe dei militari locali morti in Europa sono state scolpite con il marmo della Valle d'Aosta. Qui siamo in Normandia, questa è la zona del D-Day, dello sbarco, croci, gli ebrei. Gli ebrei sono contrassegnati dalla stella di Davide. Queste croci sono sterminate. Ce n'è uno anche a Costa Hermano, parte della Vigliata, poi ce ne sono nei pressi di Anzio, dove c'è stato lo sbarco, eccetera, eccetera. Durante, a termine della guerra, della seconda guerra mondiale, due ufficiali militari giunsero a Lato, hanno sentito dire che c'era una cava dove lavoravano il marmo, e scoprì che c'era questa cava che ormai era in lavoro, perché non ci lavorava davanti nessuno, figuratevi se durante la guerra c'è il che ordina del marmo. Quindi arrivarono. Siete in grado di, chiedere subito 50.000 croci e le cave rivisse e sul posto si scolpirono le croci già con i loro nomi e partivano dalla Val Venosta per andare in Normandia, Sarmana, ad Anzio. Le bianche croci prende il cuore. Le bianche croci, stavo dicendo, dei soldati americani in Italia sono questo è l'ultimo libro che dice, il penultimo libro che ho scritto, del quale vi ho già detto c'è dentro il romanzo storico, vedete la divisa Sabauda, e con ciò ve lo propongo per questo discorso interessante, questo itinerario che i garibaldini hanno fatto da lungo le montagne, combattendo una guerra non classica, perché non avevano la capacità, non erano militarmente istruiti alla manovra, no? E passavano le montagne in montagne come le scienze di Andreas Hofer. Più o meno la tecnica era quella di nascondersi dietro gli alberi. Tra l'altro, la guerra terminò, non voglio tenervi oltre perché ho già fatto le 7:10 e i vostri seduti siete stati molto gentili ad aspettare fino a questo momento, non vi racconto altro. Vi ringrazio di essere intervenuti anche questa volta numerosi nelle mie chiacchierate e come avevo detto a Reggia un voltano scomparso 7 l'anno prossimo.